207. Petti di pollo alla scarlatta. Da un petto di cappone o di una grossa pollastra potrete cavare 6 fette sottili che in un pranzo basteranno per 4 o 5 persone. Cuocetele col burro e conditele con sale e pepe. Fate una balsamella con burro grammi 20, farina grammi 40, latte decilitri 2. Quando è cotta, uniteci grammi 50 di lingua salata tritata fine con la lunetta e diacia che sia, spalmate con la medesima i petti di pollo da tutte le parti, tuffateli poi nell'uovo frullato. Un solo uovo sarà sufficiente. Panateli e rosolateli nel burro o nel lardo alla sauté e serviteli con spicchi di limone.